Cioè, non basta Milan Alessandro, non basta il Milan, quello là, i rossoneri, no, altri 100 Milan, uno nessuno, 100 Milan, bah, troppo Milan. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. Mojito si stiracchia. Angelica studia. La mucca non dà latte. Mattia beve la spremuta. Maometto, le scarpe mi stanno strette. Signori, signori, eccoci qui dalla ridotta di Viale Monza, giorno numero 2 della resistenza di Uno, Nessuno, 100 Milan. Qui ci vorrebbe il vecchio inno russo, il vecchio inno sovietico, ovviamente, che mettevamo, non si fa ironia, ovviamente, anche se l'ironia di questi tempi, secondo me, è sempre gradita. Buongiorno, cari ascoltatori, Uno, Nessuno, 100 Milan, siamo in diretta fino alle 11, come sempre, dalla ridotta di Viale Monza, perché, come sapete, io trasmetto da casa, sono ligio alle disposizioni del io resto a casa e siamo qui. Credo di vedere virtualmente anche un Giorgino De Luca, che oggi è chiamato agli straordinari e ci assisterà insieme a Carmelo Lauricella in regia. Vi saluto, dai, sbracciatevi, sbracciatevi, sbracciatevi, di più che non vi vedo, va bene, così, ecco, va bene, di più. Ho messo una foto su Facebook della mia pagina pubblica, se volete vedere, esattamente come vado in onda. Dopo anni, centinaia di anni di conquista della tecnologia, della radio, con gli studi avanzati, gli studi tecnologici, potete andare sulla mia pagina Facebook pubblica per vedere una foto come si trasmette dalla ridotta di Viale Monza. Va bene, ci siamo, anche oggi abbiamo tanti temi da affrontare, ovviamente, stiamo con voi fino alle 11. Leonardo Vestagliona Manera, adesso non posso neanche dire che c'è la Vestagliona da casa, comunque è che sarà collegato da casa, più tardi, che dire, ci siamo tutti. Saluto anche Lorenzo Nespoli, saluto Miriam Lucchetti, saluto Elisabetta Fusconi, la nostra grande redazione di Radio 24 che va avanti sempre, comunque, vai Carmelo. Enthusiasm. About the future. Ale, Ale, Ale. Cari ascoltatori, insomma, il tema del giorno lo sapete, avete sentito anche poco fa Buffagni, il ministro Buffagni, da Simone Spezia e Menelatella, è chiudere tutto. Chiudere tutto, questo con un punto di domanda. Io vi chiedo cosa ne pensiate, chiamateci all'800 24 00 24. Vi dovrei chiedere di tornare ai vecchi SMS, perché io gli SMS li vedo 349 238 6666. Il numero è sempre lo stesso. Se volete invece mandare WhatsApp, se volete mandare WhatsApp audio vocali per dire la vostra, sempre al 349-238-6666, noi siamo qui, li facciamo, come dire, mandare in onda, anche perché il nostro Giorgino De Luca è chiamato agli straordinari, te tocca, e quindi te tocca anche tagliare. Allora, signori, sono tante le cose che mi hanno colpito oggi dai giornali. Una in particolare è il grande tema del paziente zero. Il paziente zero sul quale si stanno scervellando tutti quanti. Vi segnalo Davide Milosa oggi sul Fatto Quotidiano, perché Davide Milosa vuole esplorare ed esplora sempre più la questione del famoso paziente zero dalla Germania. Ebbene sì, non si guarda più tanto a Codogno, quel Mattia che si è ammalato andando poi al pronto soccorso, infettando altre persone, e fortunatamente però è uscito da una situazione di grave pericolo, sappiamo dai sanitari, e da un suo presunto contatto con un collega che era a Shanghai, ma si guarda ora sempre più alla Germania. E guardate che ve lo cito questo articolo, perché è stato proprio lo staff di Massimo Galli, l'infettivologo che abbiamo avuto ospite ieri proprio qui in apertura, a raccontare che molto probabilmente la data da cui far risalire tutto questo è il 25 gennaio, quando in Germania viene isolato il virus da un manager tedesco che lo ha contratto da una collega cinese di Shanghai. E attenzione, perché pare che parta tutto da qui la situazione in cui siamo. Comunque leggete l'articolo di Davide Minosa, perché è un articolo molto interessante, è un articolo che racconta tutto questo. E va bene, e poi che dire, l'appello io resto a casa l'abbiamo detto un milione di volte, lo dico nuovamente, io resto a casa fisicamente, proprio sono qui con i gatti che mi gironzano intorno, spero che non strappino qualche filo facendo saltare tutto. Ci sono tutti quelli che stanno a casa, ci sono anche quelli che non ci stanno. Io ho letto qua e là del gruppo di ragazzi che è stato pizzicato mentre voleva andare a un compleanno, ho letto di persone che sono andate a un funerale, questa è una grande tragedia, ci sono persone che muoiono e i funerali non possono essere fatti, o ci sono pure due persone, tre persone, e questa è una grande tragedia. Certo, poi si leggono anche notizie, è successo qualche giorno fa, ma incredibile, anche in Francia ci sono persone che hanno fatto il raduno dei puffi. Signori, non ridete, perché il raduno dei puffi, 3.000 e rotte persone. Allora, tutte quelle persone che non rispettano le regole, a tutte queste andrebbe un premione Giachetti. Carmelo, va, pensaci tu. Avete la faccia come il culo. Lo facciamo a livello internazionale, per tutti quanti. Comunque, parlando seriamente, ripeto, 800240024, io voglio salutare il primo ospite, che ringrazio molto per essere qui, perché insomma, tra riunioni, incontri a livelli istituzionali, gli rubiamo pochi minuti di tempo prezioso. Si tratta di Walter Ricciardi, che è consigliere per il Ministero della Salute per questa emergenza. Buongiorno professor Ricciardi, grazie. Buongiorno. Allora, io intanto le chiedo questo: i cittadini, il grande tema, l'avrà visto anche lei, è dell'idea del chiudere tutto, non chiudere tutto, è inevitabile, non è una decisione che spetta a lei ovviamente, ma tutta l'Italia si chiede se le misure prese siano abbastanza o se sia il caso invece di forzare ancora di più la mano, e se farlo passo dopo passo o farlo definitivamente basta. Lei ha una posizione da scienziato, vedendo i numeri su questo. Ma sì, la decisione è quella più appropriata, tempestiva e misurata. È chiaro che bisogna che la gente, quando dico la gente dico tutti, collaborino, perché se la misura c'è però poi non viene rispettata, è chiaro che questo vanifica proprio il tentativo di ritardare l'ampliamento del contagio e rendere possibile al nostro Servizio Sanitario Nazionale di rispondere adeguatamente a tutte quante le richieste che vengono fatte. È chiaro che se noi constatiamo che questo tipo di misura non viene rispettata, è probabile che si debba passare a un livello un po' più energico. Senta, le chiedo questo: ogni giorno il capo della Protezione Civile Borrelli snocciola dei numeri che per noi sono freddi numeri, che dicono tanto delle storie anche delle persone che perdono la vita, delle persone anche guarite ovviamente. Per lei questi numeri che cosa ci stanno dicendo? Ce li può tradurre dal punto di vista dell'ottimismo o del pessimismo? I numeri sono la traduzione nella realtà di un fenomeno che ci deve preoccupare, e proprio per questo ci deve indurre a stare a casa quando possibile e a uscire soltanto quando è veramente strettamente necessario, perché ci dicono che c'è una parte del paese, cioè le regioni settentrionali, che sono particolarmente interessate da una circolazione intensa che provoca un numero di malati importante, che preme sui servizi sanitari, in particolar modo sulle rianimazioni, che sono quasi alla saturazione. E c'è un'altra parte del paese in cui noi vogliamo evitare che si arrivi a questa situazione, ma che per lo stesso motivo deve rimanere in casa, perché di fatto esponendosi all'aperto, ai contatti, agli assembramenti, agli incontri, si crea la situazione migliore per questo virus, che è nuovo e quindi di fatto può colpire tutti, siamo tutti quanti suscettibili di essere contagiati. Quindi la strategia è una soltanto, quella di distanziarsi socialmente e stare in qualche modo lontani l'uno dall'altro. So che questo è doloroso, so che questo è fastidioso, però è la vera necessità. Senta, io ho letto anche questo numero, mi corregga se sbaglio, 5.350, l'ho letto oggi su Repubblica, è questo il numero esatto delle terapie intensive disponibili in questo momento in tutti gli ospedali italiani? Ovviamente si sta lavorando, sentivo anche di ipotesi per esempio a Milano di requisire una zona della fiera, dell'ex fiera, per fare dei padiglioni e aumentare il numero di posti letto. Ci faccia capire esattamente a che livello siamo dal punto di vista del rischio della saturazione di questi posti? Diciamo che in Lombardia siamo al limite, nel senso che la Lombardia già di fatto si è attrezzata per aumentare la numerosità delle terapie intensive e per cercare anche di trasformare dei posti letto normali in terapie subintensive, dove si possa fare una ventilazione meccanica non invasiva, perché quella invasiva può essere fatta soltanto nelle terapie intensive. E stiamo pensando anche a strategie alternative, un po' quando si sentiva che in Cina hanno costruito in 24 ore ospedali, in realtà non sono ospedali ma sono grandi ambienti dove vengono distribuiti dei posti letto in cui dare un'assistenza respiratoria blanda. Diciamo, i cinesi l'hanno praticamente fatto quasi con tutti, con il 76% dei loro pazienti, e questa è un'altra strategia, cioè una struttura intermedia tra la casa e la terapia intensiva ospedaliera che possa alleviare e evitare il aggravamento dei sintomi. Sì. Ci sono i modelli matematici o si possono anticipare? Ci sono degli scenari sull'idea del giorni di picco? Cioè è chiaro che io credo che ci sia una situazione in questi momenti in cui quando si tratta di salute i cittadini vogliono delle risposte certe, mentre invece giustamente i medici, gli scienziati ragionano giorno per giorno, lavorando 24 ore su 24 e calibrando le decisioni minuto per minuto. Sono un po' due livelli come dire incompatibili, professor Ricciardi, cioè il volere una risposta subito nel dire quando finirà questa cosa e il doverlo studiare minuto per minuto. Lei può dare una risposta a questo tipo di domande? Ma la certezza è una cosa che non finirà a breve, la certezza è che questo virus è nuovo, quindi noi di fatto stiamo studiando giorno per giorno la sua relazione con l'uomo, il modo con cui si diffonde, le caratteristiche che ha, che tipo di problemi provoca, quindi noi di giorno in giorno acquisiamo nuove informazioni che naturalmente cerchiamo di tradurre in decisioni operative. La certezza per la popolazione è duplice, non durerà poco, perché se noi vedremo dei risultati, li vedremo nell'ambito delle prossime due settimane, e non sarà facile uscirne se non lavoriamo tutti quanti insieme, e quindi se non in qualche modo capiamo che è una parentesi della nostra vita importante da dedicare alla protezione di noi stessi e delle persone più care. L'ultima domanda, poi la lasciamo al suo lavoro e grazie professor Ricciardi. Lei conosce anche molto bene l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Che effetto le fa vedere che il presidente americano Trump minimizza in maniera drastica quello che sta succedendo? Cioè diamo uno sguardo anche al possibile sviluppo di questo virus in Europa e nel mondo, negli Stati Uniti in particolare, la prima potenza economica. Ma negli Stati Uniti credo che avrà Trump una bruttissima sorpresa nelle prossime settimane, e cioè il fatto che quel loro sistema sanitario, che è sostanzialmente privato, cioè che vede la sanità come un bene di consumo, né più che nemmeno che un cappotto o una macchina, avrà delle brutte sorprese, perché questo significa che la gente si presenterà ai pronto soccorso, dove peraltro non tutti vengono assistiti, perché naturalmente molti vengono assistiti solo se pagano, in condizioni che noi stiamo vedendo nei nostri ospedali di Bergamo, di Cremona, di Piacenza, perché di fatto il test è solo a pagamento in larga parte, e questo naturalmente implica che lo fanno soltanto le persone sintomatiche quando se lo possono pagare, oppure magari le persone che vivono in stati che offrono un sistema di sanità pubblica appena decente. Quindi loro avranno sicuramente un'ondata di casi, avranno un'ondata di morti, e credo che questo potrebbe giocare un brutto scherzo a Trump, perché penso che la sottovalutazione un problema così importante potrebbe metterlo in grande difficoltà nella realizzazione. Sì, ci sono anche le elezioni americane, che voglio dire non sono quisquiglie, ricordiamolo, all'orizzonte a novembre. Guardi professore, le giro solo una domanda perché arriva via sms, ovviamente la preoccupazione di tutti gli italiani è che fare coi bambini, cioè tenerli in casa, proprio uscire no, oppure uscire ma isolati. Una risposta sul tema dei bambini che possiamo dire? Allora, i bambini non sono immuni da questa infezione perché, ripeto, certo, il virus nuovo, quello che stiamo vedendo è che reagiscono meglio, nel senso hanno condizioni meno gravi, però di fatto è importante proteggerli in maniera decisiva. E questo significa tenerli in casa, naturalmente mi rendo conto che per loro può essere difficile, e magari uscire molto sporadicamente, per esempio per comprare beni di consumo, e naturalmente la cosa importante è, quando si esce con i bambini, cercare di evitare i contatti con altre persone. Cioè mantenere queste regole. Grazie professor Ricciardi, noi la ringraziamo davvero, ripeto, Walter Ricciardi, consigliere del Ministero della Salute, per questa emergenza del coronavirus. E è chiaro che le preoccupazioni ci sono, le domande vengono fatte da tutti. Tra l'altro io voglio dare questa comunicazione di servizio: da domani giovedì, Uno Nessuno 100 Milan finirà un po' prima, alle 10.30, perché dalle 10.30 alle 11 Nicoletta Carbone, che sapete, Radio 24, è un po' la voce per quel che riguarda la salute e tutte le tematiche annesse, condurrà uno speciale ogni giorno dalle 10.30 alle 11, durante il quale risponderà con tutti gli esperti a tutte le vostre domande, che comunque continuate a mandare al 349-238-6666. C'è un altro grande tema, un tema che si è via via fatto più presente sui giornali, ed è il tema della chiusura delle frontiere. Ora, sappiamo tutti che il virus non viene fermato alla dogana, perché passa da persona a persona. E allora, che succede? Che alcuni paesi, Austria in primis, hanno detto: beh, ma sapete che c'è? Noi controlliamo le persone che attraversano il confine e, nel caso, le blocchiamo. Io voglio salutare il sindaco di Brennero, Franz Compatscher. Buongiorno e grazie di essere qui, sindaco. Buongiorno a tutti. Allora, intanto ci dica la situazione, cioè il confine. In questo momento, se io mi presento al confine con l'Austria, che succede se sono italiano e provengo dall'Italia? Allora, lei praticamente può fare il transito. Se lei per esempio va in Germania, allora può transitare, sì. Altrimenti no, altrimenti praticamente non può entrare. Ci sono addirittura problemi con i pendolari, che adesso lì ci stiamo lavorando, perché noi abbiamo gente che lavora in Austria e viceversa, gente del Tirolo che viene da noi a lavorare. Adesso lì sì, un spiraglio hanno trovato. Cioè possono praticamente liberamente transitare tutte le merci, e tutto il resto più o meno è bloccato. E poi ci sono i controlli, anche i controlli medici, ma adesso ci sono addirittura da oggi i controlli della polizia anche. Sì, mi sfugge la differenza. Che vuol dire, se io voglio andare in Germania posso, e se no no? Beh, cioè, allora basta che mi presento e dico sto andando in Germania? No, lei deve dichiararlo. Se lei dice beh, io vado in Germania, o io vado, non so, in uno dei paesi confinanti all'Austria, lei può transitare. Bene, in Austria no. Cioè, se dico, se devo dire, dice vai, io vado a Innsbruck, non ci può andare. Non si può andare. Cioè, questa è una decisione ovviamente unilaterale dell'Austria a questo punto. Sì, sì. Come l'avete presa voi che siete al confine? Immagino male, intanto, tutti i trasfrontalieri che appunto ci ha detto devono andare a lavorare. Cos'è di fatto? Sì. Perdono il posto di lavoro? Sono in ferie? No. Sono. Adesso qualcuno ha veramente seri problemi, ma questo si sta risolvendo praticamente con una dichiarazione del dottore. Di lavoro potranno transitare, però ci sono certi mestieri che poi hanno difficoltà, non so, per esempio da noi ci sono medici che lavorano fuori, ci sono infermieri che lavorano fuori, e quelli bisogna vedere poi anche, diciamo, con altre norme se lo possono fare. Adesso questo si chiarirà in questi giorni, no? Però sì, diciamo, se uno ha un altro lavoro, allora con una certificazione del datore di lavoro può andare al suo posto di lavoro. Sì, c'è anche il tema dei treni, perché mi risulta che l'Austria abbia sospeso anche i collegamenti ferroviari internazionali al Brennero, non per i treni merci ma per i treni passeggeri. Cioè, capisce, sindaco, che qui la situazione è che ognuno fa un po' di testa sua, c'è uno che dice una cosa, un altro che dice un'altra, e non si capisce esattamente una uniformità di giudizio. Un'uniformità senz'altro non c'è, e lì, cioè, devo dire che questo io non ritengo giusto, perché si dovrebbe agire a livello europeo. però diciamo noi abbiamo esatto. anche la situazione, perché dico, anche noi abbiamo la situazione che uno il nostro comune non lo potrebbe neanche lasciare, cioè ci sono in vigore diciamo leggi nazionali che praticamente anche un nostro cittadino se va in un altro comune deve autocertificarsi, deve avere diciamo un motivo valido, un motivo di lavoro, un motivo che può giustificare questo spostamento. Ormai siamo a questo punto ed è anche giusto che sia così, però io dico in generale per combattere questo virus i paesi dovrebbero mettersi insieme e trovare soluzioni che vanno sì. bene anche per tutti e che ci tutelano tutti, ecco, quello sarebbe importante. Poi adesso gli spostamenti no, sì. che sono un po' quello che sono, diciamo in fondo anche giusto, però dico a me che mi dà fastidio è che non si trova una soluzione comune, quello sarebbe più giusto. Ma guardi, la soluzione comune, come dice lei, dovrebbe venire dall'Europa. Anche la Slovenia, sì. ricordiamo, ha annunciato la chiusura della frontiera con l'Italia, e in questo ci è venuto incontro anche il premier francese Macron, che ha detto, il presidente francese, che ha detto sbaglia la Slovenia a chiudere il confine con l'Italia, però l'Austria lo chiude, la Slovenia lo chiude, l'Europa è un po' così, in una situazione di ambasce, di silenzio. Intanto, sindaco, lei vuol fare un appello agli italiani che volessero transitare per il Brennero? Ci saranno anche forse più code a questo punto? Come si devono comportare i cittadini, secondo lei? Ma per il momento transitare, diciamo, per noi è una perdita enorme che la gente non gira, perché la zona di confine praticamente vive degli spostamenti della gente, ma ormai è diventato molto difficile, perciò penso chi non deve andare è meglio che sta a casa, anche visto la situazione com'è. Però certo. quello che mi fa arrabbiare, l'appello che faccio io, che l'Europa non si può sempre nascondere appena c'è un grande problema, perché si è nascosta quando c'era il problema dei migranti e si nasconde adesso che c'è il problema del coronavirus. Questo non mi sembra giusto e devo veramente appellare a questo spirito europeo, che dobbiamo trovare soluzioni diciamo che vanno bene per tutti, che aiutano tutti anche, perché adesso sì. chiaramente ci vuole la solidarietà e questa è giusto chiederla. Io la ringrazio, sindaco Franz Compacer, sindaco di Brennero, grazie per essere stato con noi. C'è un ascoltatore che ci dice: notizia di un amico, sarà vero? Non lo so, ovviamente, ma ci scrive: alla frontiera di Ventimiglia non fanno entrare i francesi. Non lo so, io non, sinceramente questa la riporto come ce lo dice l'ascoltatore, che la riporta a sua volta da un detto di un amico, andrebbe verificata. Voglio andare in pubblicità qualche minuto, dando però questa notizia. Per carità, dobbiamo sempre vedere un bicchiere mezzo pieno in queste situazioni. Viene da Wuhan, proprio l'epicentro di questo coronavirus, Wuhan che però sta lentamente uscendo dalla situazione, e la notizia dice che le grandi attività commerciali di Wuhan cominceranno a riaprire poco alla volta. A partire da domani Wuhan torna in qualche modo a vivere, lo dico metaforicamente, anche con la riapertura dei grandi centri commerciali. Vuol dire che si può. Tra poco, dopo la pubblicità, il sindaco di Bergamo sarà con noi, Giorgio Gori. Pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Dovevano pensarci prima, è ovvio che bisogna chiudere tutto, perché non si capisce come mai 4 persone intorno a un tavolino a un bar non va bene, ma 40 in un ufficio pubblico sì, dai che si sveglino. Se uno Stato non riesce a permettere ai suoi cittadini di fermare le loro vite, le loro attività lavorative, le loro attività ricreative, per 2, 3, 4 settimane, per la paura di non essere poi in grado di risollevare l'economia del paese, allora il concetto di Stato ha fallito. Allora, pareri dei nostri ascoltatori via WhatsApp al 349-238-6666. Io vorrei sapere se c'è Vestagliona Manera, Leonardo. Sono qui, buongiorno, okay. Buongiorno. Come stai? Come va? Oh, abbastanza bene, anch'io avevo qualche dubbio rispetto a tutte le restrizioni che ci sono. Volevo sapere, ma in casa, dentro casa, posso muovermi o devo rimanere fermo? No, io credo che tu... credo che tu possa muoverti. Sono fermo su una sedia da ieri, sono immobile su una sedia da ieri, e volevo sapere se posso un po' circolare, fare 4-5 passi sì. Da una sedia all'altra. Sì, io farei circolare anche dell'aria, farei circolare anche dell'aria ogni tanto, no? Sì, ma assolutamente sì. Non lo so, perché se apro la finestra, metti che la mia vicina abbia il coronavirus, magari mi entra il virus della vicina attraverso la finestra, vabbè. Certo, va bene, caro Leonardo, però vogliamo salutare uno dei sindaci, noi diciamo in maniera scherzosa, io dico trasmetto da casa, sono dalla ridotta di Viale Monza a Milano, il nostro Leonardo Manera è dalla ridotta di Piazzale Udine a Milano, in realtà c'è poco da scherzare, ma permetteteci anche un goccio di ironia che può salvare, può essere salvifica in situazioni di difficoltà. Ma salutiamo appunto uno dei sindaci che sta affrontando delle difficoltà, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, grazie di essere Buongiorno. Qui con noi. Senta sindaco, io partirei da un tweet che lei ha fatto, un tweet nel quale si sintetizza tutta la drammaticità della situazione, perché lei ha detto in pratica non fatevi ingannare dal numero di pazienti in terapia intensiva, sembra che la crescita stia rallentando, in realtà lei ha scritto i pazienti che non possono essere trattati sono lasciati morire. Ci vuole spiegare il senso di una frase così forte? Ma forse potevo anche dirlo in modo meno forte, però il concetto è quello ed è quello che hanno raccontato anche nei giorni scorsi alcuni medici impegnati su questo fronte di guerra che sono gli ospedali della nostra regione. Cioè succede che nonostante si siano fatti miracoli per ampliare le dotazioni ospedaliere, in particolare quelle di terapia intensiva, il numero dei pazienti ammalati di Covid che arrivano in ospedale è superiore alle dotazioni e questo fa sì che in alcuni ospedali, Bergamo è tra questi, l'ha raccontato il dottor Sanaroli che è un anestesista rianimatore, si sia trovato in questi giorni a dover decidere chi intubare e chi no in base sostanzialmente alle aspettative di vita, e capite che è una situazione credo la più drammatica per un medico non si può immaginare. È purtroppo quello che sta succedendo nella regione che ha il miglior sistema sanitario d'Italia ed è quella che in pochi giorni ha saputo riorganizzare la rete degli ospedali, ribaltare gli ospedali in modo da fare più spazio ai malati di coronavirus. Nonostante questo siamo a questo punto ed è importante secondo me che i cittadini se ne rendano conto, non per spaventarli ma per dare loro il senso della gravità di questo momento e quindi anche della responsabilità che ciascuno ha rispetto ai suoi comportamenti. No, ma infatti un conto è spaventare ed è sbagliato, però un altro conto è anche edulcorare la realtà o raccontare un qualcosa, come dire, sottovalutando un'emergenza che c'è. Perché lei è per la chiusura totale? È il grande tema, chiudere tutto o no? Raccontava, credo oggi al Corriere della Sera, che ci sono imprenditori che la chiamano preoccupati e lei risponde... Ma si capisce, ma certo, ma perché? Lei risponde che se non fermiamo però saremo ancora più preoccupati forse, no? Io penso di sì. Il governo ha raccolto le richieste di questa regione la notte tra sabato e domenica, decretando che tutta la Lombardia e altre 14 province dovessero essere sottoposte a restrizioni nettamente superiori a quelle della zona gialla in cui eravamo prima collocati. E questo certamente già significato molto, le persone hanno capito, le strade delle nostre città sono molto meno popolate. Tuttavia ci sono ancora delle contraddizioni, ci sono i ristoranti che possono restare aperti fino alle 18, lo stesso i bar, i negozi sono aperti, ci sono trasporti pubblici, ci sono soprattutto attività di impresa, di artigianato, di commercio, i servizi. Io credo che se vogliamo raggiungere quell'obiettivo che ci viene detto così chiaramente da chi è medico e si intende di questi temi, cioè quello di arginare attraverso la rarefazione dei rapporti tra le persone, la diffusione del virus, dobbiamo secondo me dare un'ulteriore stretta, è quello che hanno chiesto ieri mattina tutti i sindaci delle città lombarde al governatore Fontana, che ha fatto sua questa richiesta e l'ha portata al governo e alle organizzazioni del lavoro, e aspettiamo per oggi una decisione. Cioè, crediamo che serva ancora qualcosa per poterci dire abbiamo fatto tutto il possibile. Come è successo che a Bergamo, ha capito, a Bergamo a un certo punto è diventata, si è parlato, Bergamo, la bergamasca, di zone rosse prima che diventasse di fatto rossa tutta l'Italia, no? Come mai c'è stato un... Perché si è determinato un focolaio intorno ai paesi di Alzano e Nembro, che sono media valle seriana a pochi chilometri dalla città, simile a quello che c'è stato a Codogno nell'Odigiano, e lì ci sono stati, come dire, un'incidenza di casi molto, molto forte, quindi per giorni abbiamo pensato che si dovesse lì indicare una zona rossa e chiuderla secondo quel protocollo. Questa cosa non è stata fatta, probabilmente si è tardato qualche giorno, poi non sta a me dirlo e non sono. Ma questo ha fatto sì che poi l'epidemia dilagasse, e quindi a quel punto si è capito, per fortuna, che non era più questione di Basseriano o Bergamo, ma bisognava trattare tutta la Lombardia con lo stesso criterio. Con lo stesso metodo. Il fatto è che il rischio che vediamo è che Bergamo possa essere soltanto l'area territoriale che ha sperimentato per prima l'epidemia in questa gravità, ma che questo possa poi accadere anche ad altri territori vicini o anche ad altre regioni d'Italia, se non si interviene con la decisione che merita. Questa è un po' la situazione, una situazione di difficoltà. I giovani lo capiscono a Bergamo di stare a casa, perché c'è il grande tema dei giovani, no? Che sono la generazione veramente più vitale, quella che non vuole rinunciare alla socialità. Io credo che l'abbiano capito tutti a questo punto. Devo dire l'abbiamo capito con un po' di ritardo, in questo credo ci sia anche un po' di autocritica mia e degli amministratori, che fino a 10-15 giorni fa pensavano che la prudenza, il rispetto delle regole che già erano state indicate fosse sufficiente ad arginare la diffusione del virus, ma che tutto sommato fosse giusto anche dare un segnale di normalità, dire alle persone: guardate, questa città comunque non si ferma. E forse non avevamo capito, lo dico sinceramente, perché abbiamo via via alzato il nostro grado di consapevolezza di giorno in giorno, via via che arrivavano i dati. E quindi a un certo punto abbiamo capito che non si poteva dire Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, ma bisognava dire fermiamoci, che è un messaggio certo, molto diverso, ed è stato difficile anche questo cambio, credo, per i cittadini capirlo e farlo proprio e trasferirlo nei propri comportamenti. Si è capito. Oggi ho letto un grande titolo, chiudiamo con un sorriso, se si riesce a sorridere. Ho letto un grande titolo, Italia fai come l'Atalanta. Insomma, Leonardo, non so se tu hai visto ieri la partita, l'Atalanta. Non so se prego, mi sentite. Prego, no, solo vai. Una cosa volevo chiedere al sindaco. Tante volte in passato si è parlato di tagli alla sanità, anche tagli di posti letti in ospedale. Ecco, vorrei sapere a suo parere se questa emergenza cambierà anche l'approccio alla sanità per il futuro. Secondo me usciremo cambiati da questa emergenza. La centralità di un servizio sanitario sufficientemente dotato di finanziamenti a questo punto credo che sia chiaro a tutti. Mi pare sia chiaro a tutti che le competenze, il fatto di avere esperienza, di sapere le cose è un valore. Quindi insomma coloro che a un certo punto abbiamo snobbato dicendo che la competenza non serviva più a nulla, oggi sono tornati invece a essere dei punti di riferimento. In questo caso purtroppo sono medici in una situazione di grave emergenza, però secondo me è un cambio di cultura molto interessante e importante. Che ci va. E sindaco, quindi Italia fai come l'Atalanta, chiudiamo appunto con questo titolo. L'Atalanta, lo sapete forse chi segue lo sport e il calcio, ha conquistato uno storico, era già tutto storico, ma adesso storico quarto di finale della Champions League. Si riesce a gioire, si riesce a esultare, sì, si riesce a sorridere in un modo molto diverso dal solito, perché insomma questa città è abituata quando ha avuto appunto, esatto, che ha avuto recentemente dei successi sportivi da festeggiare, a rilassarsi nelle vie del centro, a fare caroselli, alle persone abbracciarsi, andare ad aspettare il rientro della squadra in aeroporto con decine di migliaia di persone tutte insieme. Non è successo niente di tutto questo, come avevamo anche chiesto. Ognuno è stato a casa sua, il centro era completamente deserto, ma credo che la felicità che ci ha regalato ieri sera la squadra sia, in questo momento particolare, per tutto quello che abbiamo appena finito di dire, ancora più importante. Veramente ieri sera i nostri giocatori e Gasperini giocavano per tutto il territorio bergamasco e, certo, ci hanno dato 2 ore di normalità, di serenità, di gioia di cui avevamo bisogno. Come è stata d'altronde la dedica finale, credo, dedicata alla città. Grazie sindaco Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Partito Democratico, grazie per essere stato con noi. Caro Leonardone, andiamo a sentire le informazioni. Sì, succederà anche per il Milan, no? Quando adesso gioca in Champions, sì, è una soddisfazione, sì, anche sì, per noi milanisti, sì, adesso per la città di Milano. Pare che il campionato si concluderà con i play-off, così prevedono. Io vorrei fare una deroga invitando nei play-off le prime 14 della Serie A, così siamo sicuri di rientrare anche noi, caro Leonardo. Potrebbe essere una soluzione. Fiducia che fra 7-8 anni, come ho detto ieri, tutto finirà, tutto questo caos. No, dai, ti prego, non buttare e spargere amarezza anche in questo caso. Spargila sul Milan l'amarezza. Io pensavo dicessi tra 7-8 anni torneremo anche noi a vincere, ma no, non dire tra 7-8 anni finirà tutto questo, che poi la gente si dispera in maniera totale. No, finirà molto prima, ma tanto prima, ma neanche entro 7-8 mesi, anche prima. Mi rifaccio ai detti dei latini, no? Si vis facem para bellum. Preparati al peggio. Sì, va bene. Una citazione latina, porta la cultura. Ma in questo caso non c'è una guerra, è una sorta di guerra, ma non è la guerra. Dai, andiamo a sentire il traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, come mai non parlate di certi milanesi che non hanno buon senso e se ne fregano della salute dei cittadini? Prendono perché l'hanno dato ferie, prendono e se ne vanno giù in Sardegna e anche in Riviera, che li ho visti io, perché hanno dato ferie e sono venuti a casa del mare. Ma dove l'abbiamo il cervello, ragazzi? È roba da matti, sono incazzata nera, punto. Lo so, la nostra ascoltatrice è arrabbiata. Caro Leonardo, d'altronde anche tu volevi andare a Bergeggi. Quando hai detto voglio andare a Bergeggi, cosa è successo? Credo sia arrivato il coronavirus prima di te a Bergeggi, un caso. Ma come ha detto prima il sindaco Gori, c'è stata una generale anche, insomma, non si sapeva esattamente come comportarsi. Poi quando finalmente sono arrivate delle norme chiare per tutti, poi adesso ci stiamo adeguando, insomma. Eravamo di fronte perché sono chiare. Non lo sono ancora, chiarissime. Io intanto ho saputo che dentro casa posso spostarmi, è già qualcosa. Infatti, che cosa hai fatto in questi 2 minuti? Sei andato a berti un caffè, cioè giustamente questo. Mi sono preparato un caffè, sto misurando il tavolo in lunghezza e in larghezza. E poi pensavo anche che... Perché stai misurando il tavolo in lunghezza e larghezza? Cosa devi fare con questo tavolo? Niente, ma uno deve pur trovare il modo per passare il tempo. Io misuro il tavolo. Capito, ma appendi un quadro, non lo so. Ho deciso di misurare il pavimento. Ma ho deciso di misurare tutti i mobili di casa mia, ecco. Così farò poi una piantina precisa e quando la rivenderò potrò dare tutte le dimensioni, muri, mobili, tutto. Pensavo che quando questa storia finirà tra 7-8 anni, le persone si rivedranno e non si riconosceranno più, perché saremo tutti molto invecchiati e vedremo le altre persone, ma non ti ricordavo così, come sei invecchiato, sei vecchio. Ci vedremo tutti in modo diverso. Sarà una lo dici scoperta. Sempre con un tono un po' sprezzante, dici sei vecchio, lo dici sempre con un tono un po'... No, cambieremo, perché vedendosi tutti i giorni non noti le rughe che di giorno in giorno si accumulano sui visi, invece così noteremo tutte le trasformazioni dovute al tempo che passa. Sarà una debacle dal punto di vista estetico. Allora, il livello di amarezza è già esagerato, sì, esatto. Io non so, adesso dovrei lanciare un tuo monologo, ci vuoi preavvisare sul fatto che possa essere doppiamente amaro e quindi aggiungere amarezza ad amarezza? Ma non lo trovo particolarmente amaro, parla dei tamponi della vita. Va bene, sentiamo un po', Carmela. Questo coronavirus sta facendo crollare tutte le nostre certezze, quelle accumulate in anni e anni di serena vita cittadina integrata. Avevamo un rimedio per ogni difficoltà. Quando c'era un litigio in casa, il rimedio era andare al bar e bere un aperitivo. Quando eravamo reduci da un pranzo un po' pesante e ci vedevamo sovrappeso, per smaltire si poteva andare in palestra o in piscina. Quando la malinconia ci prendeva fino nelle viscere, c'era pur sempre il centro commerciale dove si poteva andare per consolarci con lo shopping. E tutto questo, tra l'altro, senza andare dallo psicologo. Ho già raccontato altre volte la mia non fortunata esperienza con gli psicologi. Ne ho frequentati due per brevi periodi, un paio di mesi a testa. La prima era una signora che per la prima mezz'ora mi ascoltava in silenzio assoluto e poi per la seconda mezz'ora mi denigrava e insultava, col risultato di farmi uscire peggio, molto peggio di quando ero entrato. Il secondo invece era uno psicologo e quando gli raccontavo le mie avventure o meglio disavventure si commuoveva così tanto che alla fine toccava a me consolarlo e nonostante questo alla fine dovevo anche pagarlo, quindi ho lasciato perdere e mi sono rivolto ai tamponi che ha creato la nostra società, perché la nostra società ha messo a punto una serie di tamponi per contrastare i problemi, piccoli o grandi che siano. A ben vedere tutto quello che abbiamo intorno è un tampone non per controllare se abbiamo il coronavirus, ma un tampone che serve a tamponare la tristezza o il senso di vuoto che ogni tanto ci assale. Adesso i tamponi della società non sono più disponibili, quelli sociali, perché è tutto chiuso, allora bisogna tornare a farli in casa. Il problema è che i tamponi casalinghi sono un po' più complicati e impegnativi di quelli già pronti e non è detto che i tamponi fatti in casa le prime volte vengano proprio bene. L'unico tampone, gli unici ancora disponibili sono le TV, i social, i videogiochi, però anche di quelli dopo un po' ci si stanca. Allora vai coi tamponi fatti in casa. Ecco, allora una lista di alcuni tamponi fatti in casa per rimediare ai momenti grigi o di malinconia che si possono verificare in queste nostre giornate di asocialità forzata. Per esempio, problema, litigio con moglie o marito dal quale non si può evadere perché bisogna stare in casa. Tampone, piantare 10 chiodi con la testa nel muro. Problema, figli che si lamentano in continuazione perché a casa si annoiano. Tampone, andare nella tromba delle scale nudi e urlare a tutto volume una canzone di Albano. Problema, figli che sequestrano il computer di papà, il quale non può più navigare e guardare foto e video piccanti. Tampone, cucinare 3 kg abbondanti di polenta taragna, consumarla tutta sul divano fino a quando gli effetti non ti fanno più pensare al sesso. Intanto urlare contro i vicini, che fa sempre bene. Problema, esasperazione dei continui servizi televisivi e aggiornamenti inquietanti sul coronavirus. Tampone, buttare giù una boccetta intera di lassativo e passare tutta la giornata in bagno dove la TV. E vabbè, così, tamponi della vita, caro Leonardo. Ah, perché siamo in ritardo, è per quello che è stato tagliato così. No, non è stato tagliato, forse l'hai tagliato tu. Non l'ho tagliato io. No, l'hai tagliato tu. No, tu l'hai tagliato, tu ti vergognavi del tuo pezzo, ti vergognavi tantissimo, e invece era un bel pezzo, e stava anche venendo bene, soprattutto i chiodi piantati con la testa. No, tu l'hai tagliato, ti sei autocensurato. Stato malamente forse saranno gli effetti del no forse sta no poverino Giorgino De Luca non c'entra niente, forse sono i primi effetti della mia richiesta di licenziamento che ho fatto alla Scaglioni nei tuoi confronti, ma non questa cosa tu non dovevi dirla pubblicamente. Mi dispiace però adesso... che quel maledetto Giorgio De Luca che è rimasto in regia mi abbia troncato così. Maledetto De Luca. Ma no, ma non c'entra niente De Luca. Ma no, assolutamente. Però se te la vuoi prendere con Giorgino De Luca, prenditela con lui, chi se ne frega. Ognuno deve avere un capro espiatorio. Sentiamo Antonio che ci chiama dalla provincia di Venezia. Antonio. Buongiorno. Ci siamo già sentiti tempo fa per un altro problema e forse mi riconosce. Allora, io sono un infermiere che lavora, ho un ritorno di Eco che è folle. Non ce so la perché. Faccia lo stesso forse. Allora, io lavoro nel comparto privato della sanità. E niente, sì. Allora noi stiamo lavorando in supporto con la pubblica, nel senso che stiamo dando posti letti rispetto alle esigenze e carenze dei posti letti che ci sono nel pubblico. Mm-hmm. E volevo solo far notare una cosa, che la sanità privata, il comparto della sanità privata è da 15 anni che aspetta un rinnovo contrattuale. Allora, quando le cose vanno bene, noi siamo considerati una specie di categoria di serie B. Adesso che stiamo dando il supporto al pubblico, non si viene ancora riconosciuto niente, perché stiamo saltando turni di riposo straordinari solo per dare un supporto al pubblico. Sì, insomma lei dice, siamo in difficoltà, anche in difficoltà contrattuale, stiamo dando un supporto al pubblico, pubblico nel senso della sanità pubblica. È una situazione difficile, come diceva prima tra l'altro Leonardo Manera, il fatto di avere fatto tagli alla sanità, evidentemente poi lo paghiamo. Io credo si debba andare al giornale radio, questa almeno è la sigla che in sottofondo mi accompagna. Se vuoi comunque puoi prenderti anche con Lorenzo Nespoli. No, sì, ma io preferisco prendermela con Giorgio De Luca. Macchina, guarda, non posso uscire, ma vado lì a rigargli la macchina. Giornale radio. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, mi hanno riferito che domenica scorsa a Caorle c'era l'ira di Dio di gente. Agli italiani non bisogna spiegare, bisogna dargli il bastone e basta. Adesso il primo che tira fuori la storia della decrescita felice lo prendiamo a calci in culo da Milano a Napoli, eh? E anche quello che tira fuori la storia che i vaccini non servono un cazzo. Ok Manera, va bene che devi stare a casa per colpa del coronavirus, ma dai il telefono, ma usa l'app che è più tecnologica, perché non usi il telegrafo, l'alfabeto Morse, dai. Stupenda questa, giuro. In questo caso non è colpevole Leonardo. No, sapete qual è il problema? È che Leonardo Manera è un taccagno. Ma giuro, Leonardo, è vero che domani facciamo una promessa agli ascoltatori, ti colleghi con Luce anche tu? Diciamola tutta, che la radio prevede solo l'app per una persona. Io non sapevo nemmeno che fosse possibile averla per due. Tu stamattina mi hai detto che c'è per due, ma io non lo sapevo. Adesso vieni qui a fare il fenomeno. Taccagno, no, che senti, tu già vuoi rigare la macchina Giorgino De Luca, adesso vuoi, non lo so, cosa fai, scambi questa trasmissione per una rissa da saloon? Beh, guarda, io prima durante la pausa ho telefonato ad alcune altre persone di altre radio dove ha lavorato Giorgio De Luca e ho saputo che anche con loro Giorgio De Luca tagliava i pezzi, li interrompeva a posto. Adesso approfitta che eri da solo in regia per fare il ganasso, veramente bisogna andare lì, rigargli la macchina, dargli un pugno forte. No, assolutamente no. Peraltro in regia al limite c'è Carmelo Lauricella, è lui proprio che ha schiacciato il pulsante, ma in realtà forse è alla fonte il problema, è alla fonte. Dobbiamo guardare dentro noi stessi, dentro la nostra redazione, dentro le nostre risorse umane. Giorgino De Luca proprio. Mi hanno detto in altre radio che Giorgio De Luca lo fa sempre. Lo fa sempre, creare problemi e poi si vanta la sera quando torna a casa. Va bene. Ecco. Bene. A comunicazione di servizio, Giorgino De Luca, uno dei più collaboratori più efficienti, forse il più efficiente che abbiamo in questo momento sul globo terracqueo. Quando devo mandare traffico o tutti gli snodi, per favore scrivimelo sulla schermata opportuna, visto che non ho neanche il telefono, perché Mattia si deve collegare per la lezione di tecnologia in diretta e quindi io non posso avere neanche il telefono mio. Cioè, sono veramente, ormai mi sento proprio nudo come un verme qui dalla ridotta di Viale Monza. Carlo da Milano, buongiorno Carlo. Buongiorno Milan, io non so se ho il buon gusto oppure il difetto di ascoltare sempre solo Radio 24, ma questa mattina sì, dalla Tella e da Spezia c'era ospite l'assessore alla salute, insomma, della regione Lombardia. Gallera, e a precisa domanda di Spezia, se quella notizia sul fatto, insomma, che c'era questo screening tra chi doveva vivere e chi doveva morire, insomma, delle scelte, insomma, un pochettino così, lui ha risposto in maniera chiara e netta che è una grossissima bufala, che sì, c'è il problema che magari si sceglie se intubare prima uno piuttosto che un altro, ma nessuno è stato lasciato. Ma il signore, ma certo, ma il sindaco in realtà hanno detto la stessa cosa. Il sindaco Gori l'ha detto in maniera più brutale. Lei capisce che se arrivano due persone e c'è un solo posto e un medico deve fare una scelta chi intubare prima e chi no, è chiaro che da questa scelta potrebbe conseguire che la persona, una delle due persone che non viene intubata e messa in rianimazione perché non c'è posto, magari non ce la fa. Io le ho detto in modo gentile quello che si può dire in modo brutale. Si fa una scelta di fatto, se questa scelta porta al fatto che una delle due persone non ce la fa, si è fatto la scelta su chi far vivere e chi no. Lo so che è brutale, ma è un po' così, Carlo, non trova? Fin tanto che non ci sono posti per tutti, nel momento in cui a un medico è fatta, è lasciata una scelta, questo medico fa una scelta, per l'appunto. Le conseguenze di questa scelta potrebbero essere letali per chi non viene intubato. Io politicamente corretto non lo capisco e non lo so esprimere, ma da cittadino normale, quello che ha detto stamattina quello della regione era una cosa, quello che ha detto quest'altro è un altro, perché lui io che sono un cittadino, diciamo così, qualunque, quindi non credo che sia stato giusto il messaggio, cioè non lo so se è giusto o sbagliato. Ma qual è che le è piaciuto, qual è che le ha disturbato di più, cioè qual è che piace di più, perché guardi che le sto dicendo che hanno detto la stessa cosa, semplicemente lo stesso sindaco Gori ha detto forse avrei potuto scriverlo su Twitter in maniera un po' più dolce, ecco, però in realtà il dato di fatto è quello. No, guarda, a me quello che mi dà fastidio né uno né l'altro, io vorrei, insomma, che questa cosa si risolvesse. Io sono un lavoratore, viaggio per Milano, insomma, faccio le consegne con un'azienda, insomma, di piccolo facchinaggio, eppure essendo un lavoratore che guadagno a giornata e quindi non ho chi mi paga lo stipendio, non sono un dipendente a tempo determinato, quindi se non lavoro non guadagno, io preferirei stare chiuso, non lavorare una settimana, 10 giorni, 2 settimane, ma per avere un futuro certo e non dover lavorare oggi per avere un futuro incerto. Così. Tra l'altro, Carlo, tra l'altro, io oggi ho letto un articolo, credo, sulle partite IVA, no? Che spesso vengono accusate, additate come classe di facili evasori fiscali rispetto ai dipendenti che hanno invece la trattenuta sullo stipendio. Ecco, spezzo una lancia veramente per tutte le partite IVA che se non fatturano guadagnano zero. E ci sono diverse persone a livello zero. E qui ripeto, non voglio sempre tirare in ballo Leonardo Manera, insomma, lo spettacolo, ci sono anche settori, Leonardo, più in difficoltà degli artisti, no? Cioè proprio settori dove la fatturazione è zero. Magari numericamente ci sono settori sicuramente più significativi, ma quello dello spettacolo è dove che comunque occupa tante persone, adesso è completamente a zero. E non pensate che siano, come dire, i grandi artisti con i contratti a 6-0, che sono veramente una esigua minoranza. Si parla di tutte le maestranze, di tutte le maschere, gli allestitori, insomma, quelli che veramente vivono al pelo, no? Grazie a questo settore che ogni mese hanno da pagare il mutuo. Sentiamo. Comunque, quello che diceva l'ascoltatore, Francesco, sì. Di fatto Gallera e Goria è vero che hanno detto la stessa cosa in modo diverso, ma insomma hanno detto che bisogna dare delle priorità. Ecco, tutto qua. Sì. Sentiamo prima del traffico Francesco dalla provincia di Brescia. Sì. Buongiorno. Vai, Francesco. Io sono un parrucchiere per uomo qui nella provincia di Brescia, dove ho deciso in autonomia di chiudere l'attività per senso del dovere, niente di più, niente di meno. Le preoccupazioni sono che quelli che invece non si comportano allo stesso modo, quando noi ripartiremo, quelli si sono comunque accaparrati tutto il resto della clientela che magari invece, trovandosi in difficoltà anche per una banalità come un taglio di capelli, faccio per dire, così via, decidono di trasferirsi altrove è incredibile, Francesco, questa cosa, cioè il non capire la situazione di emergenza e cercare di accaparrarsi la clientela, che per carità in situazioni di normalità è una normale concorrenza libera, e adesso invece diventa il intanto rubo qualche cliente a quello là che ha chiuso. Poi adesso non voglio fare la Cassandra, poi chissà se riaprirai mai, voglio dire, in questa situazione, perché se ti comporti così. E lei che dice? Ma io sono convinto che non lo fanno con cattive intenzioni o la volontà di fare proprio questo gioco, chiamiamolo sporco, per carità. Capisco che le mancate entrate sono fondamentali in questo momento. Comunque ogni giorno che lavori o che non lavori è un'entrata o non lo è. In questo caso, nel mio caso, non lo è. E se il governo deciderà di chiudere le attività in questo momento, spero di che non lo facciano troppo tardi, in modo che tutti giochiamo ad armi pari, insomma. Certo, assolutamente sì, Francesco, grazie. Ovviamente la provincia di Brescia, poi Leonardo dal parrucchiere, prova a te a mantenere la distanza di un metro di sicurezza, voglio dire, quando c'è il taglio dei capelli o il taglio della barba. Il problema è che viene lasciato al libero arbitrio delle persone, se ci fosse una norma, diciamo, sì, definitiva, che viene lasciato tutto al libero arbitrio. Il libero arbitrio farà sempre danni, l'uomo non deve mai decidere, altrimenti crea mai problemi. Sì, però mai. Quando mai. Dicono anche ci vuole la mezza, la misura come la Cina, no. Ragazzi, io sono più contento di vivere in democrazia piuttosto che in Cina, poi fate voi, è chiaro. Adamo che Adamo ed Eva avevano il libero arbitrio, hanno avuto casini e li hanno creati a tutti noi per l'eternità. Se Dio avesse neanche messo la mela, niente, zero. Il libero arbitrio non deve esistere per l'uomo, solo norme precise e coercitive. Ecco, va bene. Andiamo al traffico, poi ci sarà un grande con noi, Gioele Dix, tra poco. One Express, One Express, il pallet Express. Vi presenta. Uno, nessuno, 100 Milan. Gli italiani sono o bianco o nero, agli italiani non piace questa indeterminatezza, perché agli italiani o li si lascia fare una cosa e la fanno, o gliela si impedisce e la fanno lo stesso. Ma quello di essere lasciati così, fate un po' voi, no, li spazientisce, li irrita, non ci sono nemmeno le parole per dire una cosa con nonchalance. Come si potrebbe scrivere la E dopo settimane, mesi, anni di studi, le Ferrovie dello Stato avrebbero deciso di mettere una targhetta vuota. E l'italiano di fronte a una targhetta vuota, bianco o nero, col pennarello scrive Forza Juve. Insomma, Gioele Dix, buongiorno, ciao Gioele. Buongiorno Alessandro, buongiorno a te. Allora, c'è anche Leonardo Manera che ti saluta. Ciao, qui. Ciao Gioele. Qui, ciao Leo, devo dire, devo dire che questo pezzo, che è un pezzo storico stupendo di Gioele Dix sulle targhette, e ci siamo permessi un pochino di riassumerlo, Gioele, perché tutto era grandissimo, no? Sulle targhette sui treni, no? Com'era la targhetta famosa? La targhetta è quella che invita i passeggeri a non buttarsi fuori dal finestrino, no? Che è già di per sé una cosa che non andrebbe fatta in nessun modo, però a seconda del popolo a cui è rivolta è scritta in modo diverso, per cui al tedesco glielo si impedisce categoricamente, nicht in Auslen. I francesi usano un po' quel modo, appunto, quello che si riferiva a quello spezzone che avete detto, cioè la nonchalance, quindi i francesi abituati a scegliere, hanno interiorizzato la libertà. Per cui insomma fai un po' come, no, ne passe ponche o dehors, così, cioè mi ha pas de raison de se ponche comme ça, non c'è motivo. Gli inglesi invece hanno un tipo di formalismo anche un po' vuoto per noi, cioè dicono please do not lean out of the window, cioè per fare un piacere, non si capisce a chi, tra l'altro, perché voglio dire, uno deve avere un piacere sì, soggettivo, la propria incolumità. Forse gli inglesi vanno per piacere alla regina, insomma, please for our majesty. Not lean out of the way. Invece gli italiani c'è questa scritta che è misteriosa, cioè che non sai decodificare, per cui io faccio un lavoro di sottrazione e dico non si può scriverla come la scrivono i tedeschi, perché se appunto se a un italiano impedisci categoricamente di fare una cosa, sei sicuro che l'italiano la farà, no? Quindi un treno a media percorrenza, un Milano-Bologna all'altezza di Lodi sono già tutti tronchi. Francesi non funziona per quel motivo che si è sentito nello spezzone, perché non c'è modo, non sappiamo come dirla, cioè il metodo inglese non funziona, perché quando dici per favore a un italiano lo insospettisci e dici per fare un favore a chi? Poi mettiamo che io ti faccio sto favore, cosa mi viene in tasca? Cioè mi dai una riduzione sui posti prenotati, se no io mi butto fuori, che cazzo mi frega? E quindi l'italiano finisce per, c'è questa cosa che svelo solo all'inizio, anche se tutti la conoscono perché l'hanno letta tutti macchinalmente per ore, no? Mentre che è pericoloso sporgersi, che è una forma minacciosa sostanzialmente. Infatti io la leggo con un'inflessione siciliana, chiarendo che non è un fatto siciliano, ma è proprio un fatto italiano, cioè è totalmente italiana quella lettura, cioè l'inflessione la uso per comodità, ma per cui forse, dando questa cosa è curiosa, perché io l'ho fatto soltanto una volta in televisione, perché dura 13 minuti, quindi in televisione non te la fanno fare. Ed è stupendo, andate a cercarlo, lo trovate, è stupendo. A solo, sulla 7, a solo, nel 2002 mi sembra, lo feci intero. E ha avuto 1 milione di visualizzazioni negli anni, perché la gente lo conosce, lo va a cercare, ma negli ultimi 48 ore ce ne sono state altrettante, perché qualcuno l'ha riscoperta ed è passata di bocca. È una cosa così che in questo momento ci sta, perché siamo tutti molto colpiti nel profondo. Sì, perché adesso siamo a dover essere invitati a rispettare le regole, e quando si tratta di fronteggiare le regole, insomma. Però peraltro, scusa se ti ho interrotto, sentivo uno spezzone della tua ultima dichiarazione, dicevi preferisco stare in un paese democratico. L'esempio della Cina, dove hanno chiuso tutto eccetera, è evidente, lì c'è uno stato di polizia, per cui da noi è più difficile, sono trovati anche un po' impreparati tutti di fronte a una cosa così clamorosa, no? Per cui è ovvio. Ma che bene così, cioè bene che sia una democrazia, cioè in Cina c'era la pena di morte per chi violava la zona rossa, insomma, quindi certo. Meglio così. Leonardo? Ma no, dicevo che il problema alla fine è quello che un po' dicevo prima, nel senso il libero arbitrio, noi ci troviamo di fronte magari a delle norme che sono interpretabili, e di fronte a quelle poi gli italiani insomma agiscono sempre in modo molto diverso uno dall'altro, no? Sì. Tra l'altro citavi Adamo ed Eva, grande interprete anche con grandi spettacoli sulla Bibbia e sulla Genesi, in particolare Gioele Dix ne ha fatti. Ah, no? Sì, perché Leo sostiene che si è cominciata lì la faccenda. Praticamente sì, la vera, no, dico che il libero arbitrio ha sempre fatto danni. E quindi il giardino dell'Eden era in Italia, probabilmente nell'area che non sappiamo in che zona, in Toscana forse. Forse sì, ma Leo, vedi, caro Gioele, lui è già tu lo conosci molto bene, Leonardo Manera già è un barricato di suo, noi l'abbiamo chiamato già l'uomo grappa, l'uomo barricato, lui si vuole ritirare poco alla volta, per cui questo coronavirus non ha fatto... è già pessimista di suo, tra l'altro, per cui questa cosa... Esatto, esatto. Per cui lui attendeva solo questo segnale dell'apocalisse, no? Per potersi rinchiudere, stare lì, barricarsi, stare nel suo eremo e via. Ma tra l'altro anche Gioele immagino che stia vivendo sulla sua pelle tutto il periodo, nel senso spettacoli che ovviamente non ci sono più. Come vivi tu la cosa, Gioele? Come la vivo? Niente, sono tra l'altro dispiaciuto perché qualcuno di noi ha qualche riserva, evidentemente, cioè ha da parte qualcosina e può fermarsi, ma molti che lavorano nel nostro mondo, ma non è un problema solo nostro, del nostro ambiente, però molti sono dei precari. Infatti già qualcuno è stato messo alla porta, si sta cercando la cassa integrazione, che però non è... anche perché nel nostro mondo dello spettacolo ci sono situazioni molto disomogenee. Noi stessi attori siamo in parte liberi professionisti con l'IVA, in parte siamo dipendenti. La situazione è molto complessa. Speriamo tutti, io nel mio caso ho annullato, abbiamo rimandato e riprogrammato da metà maggio in poi, con un gesto anche, come dire, di fiducia, no? Speriamo che sia possibile riprendersi da metà maggio e fare quegli spettacoli, noi lo speriamo tutti. La situazione è molto seria. Come si rientrerà, Gioele, da questa situazione? Tu ti immagini ci sarà un punto in cui la gente comincerà a tornare a teatro, comincerà a tornare nei cinema, comincerà... E come, con quale spirito, secondo te, anche gli artisti sul palcoscenico riaffronteranno questo ritorno e poi anche il pubblico? Certo, io sono convinto con molta energia, con la sensazione di avercela fatta. Naturalmente molti di noi sono preoccupati, potrebbero uscirne con qualche ferita in più, perché poi insomma ci sono persone vicine che si sente dire, insomma, no? Già persone che in certe zone devono stare a casa perché non possono essere ricoverate in ospedale, perché poi il tema è anche che... ma dico cose molto banali che già dicono tutti, ma insomma il tema è anche che ci sono anche tutti i problemi normali di salute, in questo momento subiscono un condizionamento forte, per cui se devi andarti a cavare un dente è un problema, se ti spacchi una gamba e cose anche peggiori, per cui speriamo di uscirne bene. Di uscirne bene, secondo me ci sarà una grande voglia di riprendersi, questo è sicuro, il problema è quando. Dobbiamo, secondo me, prepararci a un tempo un po' più lungo di quello che ci è stato detto, perché forse nessuno o pochi sapevano, immaginavano, forse quelli che sapevano dovevano essere più convincenti, più forti, più... Qualcuno ha anche perso del tempo, qualcuno ha anche valutato male. Non credo che ci sia nella sostanza della malafede, però insomma diciamo che si sta molto leggerezza. No, io credo di no. È che è davvero è l'emergenza più grave dopo la Seconda Guerra Mondiale, da dover gestire. Esatto. Caro Gioele, nel ringraziarti, la domanda che faccio sempre anche a Leonardo Manera, ne approfitto anche a te, quanto una risata possa essere salvifica in questi momenti, anche drammatici per alcuni, però senza perdere mai il senso dell'ironia. Sì, sì. Diciamo che la risata nasce addirittura dal dolore, cioè proprio per cui dalle cose storte, quindi è quasi connaturata. È anche vero che in certi momenti non è così facile, perlomeno bisogna essere un po' attenti, insomma, secondo me non puoi proprio ridere di tutto e in certi momenti ancora meno, però se trovi la chiave giusta... magari, ecco, io sono meno convinto delle battute fatte quelle sulla cosa, cioè ci sono proprio pochissimi in grado di fare delle battute azzeccate sulla faccenda attuale, che è molto seria. Sì, sì. Però le risate in generale, cioè vedersi un bel film di Stan Laurel e Oliver Hardy in questo momento è un toccasana assoluto, ecco. Un bel monologo. Non è un caso che il tuo pezzo storico, insomma, sulle regole, su come i vari europei fronteggiano le regole, è estremamente attuale. Insomma, quello vuol dire sorridere pur senza citare la questione coronavirus. Sì, no, Gioele, certo, ecco, Ripeto, appunto, sulla questione sono pochissimi fuori classe che possono permettersi di dire le battute e forse non lo fanno neanche. Leo, credo che anche tu sia d'accordo, cioè ti dà fastidio quando si fanno delle ironie spesso sui social con delle battute che peraltro molto spesso non fanno neanche ridere, no Leonardo, sulla questione? Ma guarda, secondo me c'è un modo di mettere insieme le cose, nel senso che certo, se tu hai un parente che ti è morto di coronavirus diventa veramente fastidioso e sgradevole parlare di quelle cose, però prendere il principio generale del momento, no, e cercare di trarne poi degli spunti comici, invece secondo me quello è sempre bello e utile e in qualche modo serve per esorcizzare proprio i problemi. Sì, noi ringraziamo davvero Gioele Dix, un grande abbraccio a distanza, tanto siamo al telefono, siamo ognuno a casa sua, un grande abbraccio a Gioele Dix, andate a trovare, lo trovate sui social, quel pezzo meraviglioso in cui si parla della targhetta sul treno. Ce la facciamo Alessandro dalla provincia di Monza e Brianza, che ringrazio perché lì da un po' di tempo prima della borsa, vai Alessandro. Pronto? Prego Alessandro, sì, prego. Sì, no, io volevo chiedere la soluzione a un problema molto molto pratico. Io sono di Monza e ho 70 anni. Mia figlia abita a Mugio, un paesino qui vicino, che è a casa in smart work. Io devo andare regolarmente a prendere il suo bambino e portarlo a casa mia perché lei deve lavorare. I vigili mi hanno detto che non posso perché non rientra nella casistica lì delle deroghe. E come facciamo? Lei non può portarmelo perché, essendo l'azienda chiusa, non ha la giustificazione di sto andando al lavoro. Che facciamo? No, certo, è un problema pratico molto molto serio, caro Alessandro. Tra l'altro, ma lei è sicuro che per andare dai familiari non ci sia questa deroga? I vigili, ho chiamato il comando dei vigili di Mugio e mi hanno detto di sì, che non si può. Ma perché non è uno di quegli indifferibili motivi o motivi seri, la gestione di un figlio lo è, evidentemente diranno no, c'è un genitore, la mamma se lo deve tenere a casa mentre fa smart working. Come guardi Alessandro, purtroppo molte persone, se Mattia urlasse un po' di più di quanto sta facendo in questo momento andrebbe in onda, visto che è dall'altra parte della casa e sta facendo la lezione, credo, ma Angelica credo di ginnastica adesso, mentre Mattia credo di tecnologia, eccolo qua. Mattia, puoi confermare che lezione hai fatto fino a questo momento? Ho appena fatto quella di tecnologia. Di tecnologia, come va? Come è andata? Bene. Tutto bene. Che voto hai preso? Non hanno dato voti. Non hanno dato voti, bene. Meglio così. Meglio sta mentendo, non è vero, stava giocando con i videogiochi. No. Anche il mio cellulare per seguire la lezione, infatti. Confermo, è così. Almeno così mi ha detto. Boh, io sono un credulone. Andiamo alla borsa. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, ma tutti quelli che vogliono questo futuro, certo, perché chiudono 15 giorni, lo sanno che si potrebbero stampare il 16esimo. Cioè, ma cos'è questo futuro certo, 15 giorni chiusi? Quelli che adesso vogliono chiudere tutto sono quelli che una settimana fa hanno detto andate a bere, Milano è viva, Milano non è morta. Ma si mettono un attimo zitti e a tirare tutti dalla stessa parte. Allora Milan, io sono chiuso in casa senza la mia compagna che è da sua mamma in Piemonte, è rimasta chiusa tra virgolette là. Io ho chiuso la mia attività e sono a casa con una PlayStation. Cosa faccio? Mi dai il tuo ID di Fortnite che ci sfidiamo o no? No. L'ID di Fortnite non posso darlo, non ce l'ho, al limite ce l'ha mio figlio Mattia, io non gioco a Fortnite, sono incapace e non so assolutamente giocare. Vorrei capire un attimo, perché scusate se qui dalla ridotta di Viale Monza in diretta, vorrei capire, perché c'è Angelica che si aggira, mia figlia con il gatto in braccio, scusa, hai studiato, hai fatto le lezioni? Sì, ho fatto matematica. Matematica, bene, poi dovevi fare anche la lezione di ginnastica, secondo no, perché per colpa del blocco che mi hai messo al telefono non posso installare l'app. Cioè adesso è colpa mia se non hai fatto ginnastica. Vabbè. Sì. Vabbè, cioè è colpa mia se non hai fatto ginnastica. Sì. Ma Leonardo, vuoi dire qualcosa? Cioè, adesso è colpa mia di un blocco a un'app se non ho fatto ginnastica, la lezione di ginnastica. Leonardo, per favore, aiutami. No, io penso che Angelica abbia ragione sostanzialmente. Perché... Ma come Angelica ha ragione? Vabbè, vabbè, sono... Che i blocchi di sicurezza, tuo figlio non ha il cellulare? No, mio figlio non ha il cellulare, non gliel'ho dato a 7 anni come hai fatto tu con i tuoi figli, 7-6 anni. Ma che 7 anni? Sì, dato, fate dicendo? Voi quello che volete, mi hai detto che hai fatto così, no. Tenete, fate voi. Ma no, ma come vedi invece hanno i blocchi. Vabbè, ho capito, adesso cosa ci fate qua, cari Angelica e Mattia? Avete scuola virtuale? Funziona questa scuola virtuale? Sì, questa... Funziona. Dai, andate a studiare, e non lo so, questa è la situazione. C'è l'inter, forse si è sentito in onda, abbiamo l'intervallo, cioè c'è anche l'intervallo durante la lezione di... Hai sentito che c'è tutta la retorica del che bello annoiatevi, che bello annoiarsi. Sì, sì. E tu avevi fatto un gran pezzo dicendo ai figli annoiati. Sì, diciamo anche che è una gran rottura di palle però annoiarsi, cioè noi ci annoiavamo perché non avevamo di meglio da fare, però avessimo avuto ai tempi il telefono e i videogiochi, cioè, sarebbe stato molto meglio. C'è un po' quella retorica è bello annoiarsi. Sì. No, è una seccatura enorme annoiarsi. Io invece vorrei dire all'ascoltatore, effettivamente oggi ho visto per esempio anche Repubblica con Piero Colaprico, ha fatto un articolo molto duro, pagina 3 di Repubblica, nei confronti del sindaco Sala, che qualche giorno fa indossava la maglietta Milano non si ferma, faceva le foto con gli aperitivi virtuali e adesso dice state a casa. Ma se vuoi, Leonardo, anche noi, anch'io, cioè all'inizio tutti non abbiamo capito, abbiamo forse un po' sottovalutato, ci siamo spinti a dire ma no, dai, cerchiamo di andare in giro, e poi lentamente abbiamo capito adeguandoci a quello che le autorità ci hanno detto. Per esempio, avvocato Maurizio Bianconi, avvocato, buongiorno, ciao Maurizio. Ciao, buongiorno. Tu ci dicevi a Forte dei Marmi sono tutti lì, adesso ho letto da qualche parte, no, al Forte cominciano a dire cari milanesi ma che cavolo fate, dove ve ne andate, cioè state a casa. Si cioè, sono anche menati. Che si dice... Come si sono menati? Sono menati a un supermercato, sì. Perché ma chi si sono? Sono menati? Stavatevi da coglioni, che ci fate? È tornata a casa vostra. ci abbiamo la casa qua, botte da oltre. Cioè uno adesso parla in milanese, dice magari uè bella ciccia, ven chi? Sei fottuto, vieni preso. L'uomo è così, c'è poco da fare. Sì, l'uomo è così, e chi lo dirige non è migliore, peraltro. Homo homini lupus, te lo ricordi? No, ma non è che la nostra classe dirigente ha migliorato dall'8 settembre 1943, addirittura. Cioè tu cosa vedi? La fuga alla stazione di Milano era tutti a casa da Bertuccio, l'ho visto subito. Come le code ai supermercati, per cui tutti pensano ai cazzi suoi, compreso chi ci dirige, che pensa che una bella comparsata alla televisione sia appagante, come quello che ti ha detto, ma che io ho 85.000 malati di influenza e due di coronavirus, ma non mi rompete le palle, e dopo 3 giorni sono positiva al coronavirus, sono figure da fare una buca, mettici dentro, coprissi, non ho scritto da perdere. Ho capito, ma che dovrebbe fare? Cioè, questa è l'emergenza più grave degli ultimi 70 anni, no? Dalla seconda guerra mondiale. E abbiamo la classe politica più impreparata degli ultimi casi di gente. Ho capito, ma non è che ci abbiamo Churchill, no? Non è che... abbiamo Churchill lì. Io sono dovuto andare a Roma perché conta sua mi hanno fatto un'intervistina al TG2 sul mio libro e sicché ci sono andato. In treno già davano un posto sì e un posto no. Ci avevano tutte le mascherine. Cioè, che i più diligenti si erano dati un po' da fare. Ecco. E quell'altro invece ridevano, facevano la movida, si mettevano in coda. E chi non ha cervello dopo gambe. Bisogna anche dire che la situazione è nuova, quindi anche da parte della classe... È nuova perché la peste ancora non l'abbiamo mai avuta, o l'abbiamo avuta, ma normalmente è stata distante. Però sì, che sì, sia stata una dose di incoscienza in questa classe dirigente che è corsa, quelli volevano buttare a fuoco a tutti, quell'altro ridevano perché gli italiani non li facevano entrare nei posti e invece erano noi che prima non si facevano entrare nei qua. E come Salvini. Si sono pizzicottati come i capponi di Renzi e hanno tutti teso a vincere. Ora Renzi non sa cosa dire, dice zona rossa in tutta l'Europa, non se lo fila manco la sua moglie, cosa cazzo guarda di Roma? Cioè, no, ma deve dire qualcosa. Cosa stai dicendo? Oh, ma c'è l'ossessione di Renzi, però te, no, c'è Renzi, l'ossessione, forza che c'è l'ossessione, ma perché è l'unico che non riesce a stare zitta ancora, abbi pazienza. È bella che ci sono, sì, i guanti. Beh, guarda che sì, ci sei amico e dici queste cose. La cosa bella, uno deve guardare il bicchiere mezzo pieno, per dire, le sale slot sono chiuse, niente riunioni inutili, niente socialità da gente che ti sta sulle palle, ma devi andarci lo stesso. Niente chiacchiericcio della politica, cioè è scomparso. No, non è vero, perché continuano a chiacchiericciare, è vero. Ma sì, perché dai, ma non sono più le prime 10 pagine dei giornali, no? Allora, senti, io l'ho letta una stamattina, te la voglio dire. Il candidato alla regione toscana si chiama Eugenio Gianni, è un bravo figliolo, è un socialista, è un uomo buono, insomma, cioè, che dice, e la sua avversaria è la Susanna Ceccardi, che è della Lega. Allora, questo qui fa una intervista dignitosa e all'ultimo dice, poi io non sono come la Susanna Ceccardi, che ha detto che se diventa presidente della regione toscana non va a rimane assolutamente. In effetti la Susanna Ceccardi l'ha detto, non c'è un imbecille, sì, che gli dica che se uno è consigliere regionale non può essere deputato europeo e se è deputato europeo non può essere consigliere regionale. E allora perché politica. Perché l'ha detto? Per fare chiacchiericcio, quello che ti dice chiacchiericcio si basa su, sì, queste cagate qui, capito? Sì, ah, io, sì, sono bravo, sì, e lei, sì, no, e lei no, io faccio tutte e due, e lo posso fare. Allora, il livello è questo. Però, cari milanesi, attenzione, se siete al Forte o dalle parti di Bianconi, sussurrate oppure imparate il toscano. Dici una frase, sì, milanese tipica che si può dire, che si deve invece trasformare. Per esempio, se io dico passami sulla cadrega, no? Cioè passami la sedia. Il dialetto parlano un po', devo dire. Parlano un po' sulla cadenza, che a me piace tanto. Io sono stato anche mio fratello c'è ancora. Sì, però se uno dice se uno dice danzi sulla borsa qui passami, rischia le borse. Attenzione, devono stare attenti. Che partono gli schiaffoni. I bar sono tutti, questi che lavorano. La Tezzeni sta chiuso, deve anche trovare, ci sono tutti. Chiusano tutti, è chiuso anche Armania a Milano. Maurizio, guarda, ci salutiamo. Va fatto così. Cioè, è un che per fortuna là c'è una dittatura della Cina, sì, come fare Formiglia una dittatura. Per fortuna là hanno una dittatura. Abbiamo la promessa. Abbiamo una promessa, la promessa che io ti devo invitare a parlare del tuo libro, solo che adesso l'ho lasciato in redazione, sto a casa, quando lo recupero, ma non ti preoccupare, quando le vendite saranno in calo. Ma perché devi sempre dire questa cosa di Bianconi che non è vero? Ho visto che hai messo il suo libro, l'ho già detto l'altra volta, in fondo alla fila. Ma non è vero, ma perché devi dire così? Ne ho tanti da leggere, ma ce l'ho. Dai, intanto lo salutiamo, ciao Maurizio, ci sentiamo presto, dobbiamo andare un attimo al traffico, Manera. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, la cosa assurda è che Manera può uscire di casa per andare a lavorare, quindi il suo lavoro è fare gli spettacoli, ma il pubblico non può andare a vederlo. E la stessa cosa vale per i parrucchieri, per gli estetisti, è assurdo. Beh, in questo caso Leonardo cosa fa? Va a teatro che è chiuso, il teatro è chiuso per legge, dove fa lo spettacolo? In una grande arena pubblica. Io l'ho fatto, sono uscito da casa da solo, sono andato in un teatro da solo e l'ho fatto da solo, poi sono tornato indietro da solo. Ecco, poi dite l'amarezza, no? Vabbè. Dopodiché uno si chiede da dove nasce l'amarezza di maniera. Vabbè, Hermes da Milano. Buongiorno Hermes. Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi dato questo spazio. E prego. Complimenti per la vostra trasmissione. Senta, no, io siccome vocifera un po' dappertutto che occorre questa benedetta autocertificazione. Quando si esce, io sto in casa perché ho 75 anni, ovviamente sto in casa e cerco di stare in casa il più possibile. Però ho il cane che lo porto giù 10 minuti e poi lo porto su. Però sì, qualcuno lamenta, dice ma tu devi andare con l'altro centimetro perché se ti fermano sei in contravvenzione. No, se lei Hermes si sposta a piedi, come immagino, come leggo l'articolo di Fiorenza Sarzanini oggi sul Corriere della Sera, c'è scritto: è possibile portare a spasso il cane per spostamenti limitati. Quindi lei può scendere, fare i bisogni al cane, fare un giro dell'isolato e poi tornare a casa. Questo è assolutamente come si dice in certe zone d'Italia, può portare a pisciare il cane. Esatto, scenda il cane a pisciarlo. va bene. Hermes, no, può assolutamente, lo diciamo a tutti i proprietari di cani, soprattutto io ho due gatti che qua si aggirano, Mojito mi guarda e strizza gli occhi e così dormicchia, prima ha fatto un po' il pazzo contro Zen, però insomma stanno in tra casa. Tra l'altro io credo che anche uscire da soli a fare una passeggiata sia consentito, se non incroci altre persone. È consentito, ma sì, assolutamente. Cioè, non è che fermano le persone che sono a piedi, no? Fermano le persone in macchina. Comunque, allora, dobbiamo sentire adesso un personaggio che ci è venuto a trovare ieri, ha registrato qualcosa, è il professor Janssen, credo, che vediamo se ci dà consigli, anzi no, caro Leo, mi hanno detto dalla regia che il professor Janssen se l'è data a gambe, niente, ragazzi, ancora però così è un boicott, così veramente è un boicottaggio. Sono passati tanti fonici, da quando c'è De Luca mi boicotta sempre i pezzi, è una bomba sotto la macchina. Ma no, guarda, è colpa mia, Leo, abbiamo fatto un pochino tardi sul traffico e quindi non prendertela con Giorgio De Luca, veramente non c'entra ho nulla. Ho detto che nelle altre trasmissioni ne parlavano bene di De Luca, no? Tutti convocati, benissimo. Eccetera. Sì, benissimo, due pezzi, me li ha fatti saltare. Ma no, ma non è stato, va bene, sentiamo Francesco dalla provincia di Alessandria. Francesco, buongiorno. Buongiorno Milan, grazie per avermi fatto intervenire. Io vi ho chiamato perché ho sentito persone che dicono io per senso del dovere o per vista la situazione ho chiuso la mia attività. Io sono un piccolo imprenditore, ho 12 dipendenti e insomma io chiuderei anche, non è quello il fatto è che poi se io chiudo e non fatturo per due settimane nessuno mi aiuta a pagare poi gli stipendi, quindi non è questione, cioè chi rimane aperto non è che lo fa per portare via il lavoro agli altri, se hai un po' di lavoro rimani aperto e cerchi di tirare avanti. Io capisco Francesco, certo, non c'è nessuna cattiveria, non c'è nessuna cattiveria Francesco, lo so, il problema è se chiudere e bloccare tutto e raccogliere i tanti cocci che ci saranno dopo un mese o se protrarre questa situazione come uno stillicidio per 2, 3, 4 mesi e poi non riprendersi più, cioè meglio la cura shock o meglio poco alla volta, non lo so, lasciamoci con questo dubbio. Manera si è amareggiato, si è abbattuto perché non c'è spazio, mi dispiace, sono saltati i tuoi pezzi, un po' boicottati, un po' tagliati, un po' censurati. Ti sei messo in questa brutta situazione, Leo? Un pre-licenziamento. Non vengo del tutto, dai. Domani esito. No, domani hai promesso con la app Luci. Oggi sistemiamo tutto, eh? Va bene. Domani misuro il letto e sto lì a misurare i mobili. Domani misuro i mobili a casa. Ciao, a domani ragazzi. Nessuno, 100.000.